in primo piano. Allora, l'apertura dei quotidiani, c'è chi sceglie la relazione del governatore di Banca Italia Draghi, così fa il Sole 24 Ore. Draghi, meno fisco e tagli alla spesa, abbassare le aliquote su lavoro e imprese, manovra credibile a giugno. Così per il Corriere della Sera, sulle tasse non decide Tremonti, questo è il titolo, per la verità è la frase di Berlusconi, il premier vuole la riforma del fisco, poi spiega piena fiducia nel ministro. E beh, il tema Berlusconi-Tremonti è davvero il tema politico del giorno, sviluppato dai giornali. Guardate un po' i titoli: Repubblica, Berlusconi-Tremonti, la resa dei conti. Per La Stampa, Berlusconi resiste a Lega e Tremonti. Per Il Messaggero, Berlusconi pressing su Tremonti. Per Il Secolo XIX, assalto a Tremonti. E poi invece il giornale, Fratelli Rom, sorelle tasse, pronti via nuove gabelle, le ha messe Vendola, che ha aumentato ieri l'IRPEF ai pugliesi. Per Libero si concentra invece sui cambiamenti del PDL, Silvio è ora di cambiare, sopravvivere alla legnata. Per Il Fatto Quotidiano, affondiamolo coi referendum, riferito a Berlusconi. Berlusconi che ritorna in prima pagina del Manifesto anche col titolo «Pagherete caro, i senza cervello se ne accorgeranno», la frase di Berlusconi. Per L'Unità, tempo scaduto, c'è una foto del governo, sono tutti ritratti in Parlamento, ma tempo scaduto si riferisce al governo L'Unità. Da cosa voglio partire come due segnalazioni? La prima la troviamo sui vari giornali. È una proposta di legge che sta facendo molto discutere, tra l'altro la vigilia del 2 giugno. Combattenti di Salò come i partigiani, è scontro sulla legge. Il titolo così è riassunto dal Corriere della Sera, ma c'è un po' ovunque. Per Repubblica, reduci di Salò come i partigiani, polemica sulla proposta di legge del PDL. Una proposta di legge del primo firmatario Gregorio Fontana del Popolo della Libertà. E scrive il Corriere della Sera con Giovanna Cavalli a pagina 34: i repubblichini come i partigiani, una proposta di legge sul riconoscimento delle associazioni di ex combattenti a cui assegnare i contributi statali, che infiamma il dibattito parlamentare e non solo. Per la verità il testo è poco chiaro, è una questione di interpretazioni, perché il testo del Popolo della Libertà di questa proposta di legge prevede il riconoscimento giuridico per quelle forze di interesse che abbiano tra i vari requisiti la politicità, la partiticità e uno statuto che rispetti i principi di democrazia interna. Si parla genericamente di associazioni di ex belligeranti e secondo un'interpretazione appunto un po' vaga, secondo questa dizione troppo vaga, secondo l'opposizione potrebbe rientrare anche in questa interpretazione i reduci della Repubblica di Salò. Ora, a nulla è valso il tentativo dell'onorevole Fontana di dire: ma per carità, non mi sfiora lontanamente l'idea di ammettere ai contributi del Ministero della Difesa i reduci di Salò, figuriamoci, io festeggio il 25 aprile. Lo stesso relatore della legge, l'onorevole Mazzoni, dice: una notizia inventata, un'ignobile mistificazione, dire che vogliamo dare i contributi statali ai repubblichini è un qualcosa di grottesco. Sta di fatto che però l'opposizione si è già indignata, dicendo, per esempio, il vicepresidente dell'ANPI Armando Cossutta dice: per me è una porcheria grande, bisogna evitare che si faccia. La comunità ebraica, con il presidente romano Riccardo Pacifici, dice: sono indignato, è una discriminazione che non possiamo più tollerare. Insomma, il rischio che con un'interpretazione di un certo tipo si sia montato un po' un caso sul nulla. Però certo c'è questa proposta di legge che si presta a diverse interpretazioni. Il giornale la pone così, a pagina 12: partigiani e repubblichini equiparati, un imbarazzo in meno per i Dario Fo, li chiama così, perché, scrive Stefano Zurlo, un deputato PDL chiede di concedere fondi alle associazioni dei reduci di Salò, anche se non è proprio così, dice il deputato, chissà se oggi tra i tanti indignati ci sono pure Bocca e Scalfari, all'epoca convinti fascisti. La seconda segnalazione la trovo dal Corriere della Sera, ed è questa: scatti di merito ai prof più bravi. A Napoli premiati i primi 11. È il progetto pilota del Ministero dell'Istruzione, che prevedeva di individuare alcune scuole in Italia nelle quali poi scegliere gli insegnanti migliori da premiare con degli scatti di merito, diciamo così, diversi dagli scatti di anzianità che sono uguali per tutti, sono stati votati dai colleghi. Eccoli qua i primi 11 insegnanti che avranno uno scatto di merito sullo stipendio. I primi due sono Fortunata Iorio e Livia Cesarano, che dicono: guardi, non mi interessa molto dei soldi, ma sono felice perché è stato riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto, soprattutto la passione per questo mestiere. Come sono stati scelti questi insegnanti? Beh, in questo studio sperimentato in questa scuola, è una commissione interna a decidere, formata dal preside, da due professori eletti da tutti gli insegnanti, più un rappresentante dei genitori, che però non ha il diritto di voto. Abbiamo deciso in base all'approccio reputazionale, la reputazione dell'insegnante, dunque in considerazione di ciò che ne hanno tutti i colleghi. Ed eccoli qua i primi 11 insegnanti, professori in Italia, votati dai colleghi, dal preside, premiati con uno scatto, con soldi sonanti, uno scatto di merito, perché sono stati giudicati i più bravi all'interno della loro scuola. Sui quotidiani la politica è tutta declinata all'analisi del dopo voto, e guardate, non c'è giornale che non tratti il tema principale politico, vale a dire una tensione che ieri si è respirata in maniera molto palpabile tra Berlusconi e Tremonti, il tema che già era stato affrontato subito dopo il voto, vale a dire quando ieri i giornali dicevano il capro espiatorio di questa sconfitta per il centrodestra viene identificato in Tremonti, cioè colui che tiene ben chiusi, ben serrati i cordoni della borsa in nome del rigore, insomma, dei conti. Ebbene, oggi tutto questo viene sviluppato dai giornali. Intanto il Corriere pone a pagina 3 questo vertice tra Bossi e quindi la Lega e il Ministro dell'Economia. Sappiamo che i leghisti e Tremonti sono molto in sintonia anche politica. La richiesta da parte di Bossi: subito misure sul quoziente familiare. E l'idea da parte del leader della Lega è questa frase che viene ripetuta poi e rilanciata da tutti i giornali, anche dalla Padania in primo piano: il governo, ha detto Bossi, va avanti, ma non so se tranquillo. Questa è la frase di Umberto Bossi, che certo ha fatto un po' fibrillare anche all'interno della maggioranza. E poi appunto il tema è quello: Berlusconi, Tremonti. Secondo il Sole 24 Ore, a pagina 4, Berlusconi, con questa frase detta ieri molto esplicita, non decide Tremonti. Il tema sul tavolo è la riforma del fisco, la faremo e gli faremo aprire i cordoni della borsa. Lui non decide, propone, gli faremo allargare i cordoni della borsa. Tra l'altro, questa frase detta da Berlusconi ai cronisti quando Tremonti era lì a pochi passi, affaccendato in altre chiacchiere, in altre interviste, in altre conversazioni, ma insomma detta proprio in maniera così esplicita, tanto che si è creata una tensione crescente. Una tensione crescente che ha portato poi il Presidente del Consiglio in serata a fare un comunicato nel quale si esprimeva piena fiducia nello stesso Tremonti, anche perché si era diffusa questa idea sempre più, sempre in maniera sempre più forte, come scrive Libero, di possibili dimissioni dello stesso Tremonti. Le mani nella borsa di Tremonti, titola Libero, che mette in prima pagina. Però questo, voci di dimissioni del ministro in serata, le voci sono state placate proprio da questo comunicato di Berlusconi, che la Presidenza del Consiglio ha detto: riconfermo piena fiducia nel ministro Tremonti. In realtà che ci sia molta tensione lo si legge davvero su tutti i retroscena. Francesco Verderami, a pagina 4 del Corriere della Sera, dal titolo il pezzo Il Cavaliere e il gelo con Giulio, il sospetto e sta prendendo tempo. Secondo Verderami, vivono ormai da separati in casa. Berlusconi non si cura più nemmeno di celare l'umor nero verso Tremonti. La via per la ripresa è quella che ha indicato Draghi, diceva ieri il premier furibondo. La situazione per Verderami è diventata insostenibile. Le posizioni sono quasi ormai inconciliabili. Spesso adesso il Cavaliere ha bisogno della riforma del fisco, soprattutto adesso definita prioritaria per rilanciarsi e rilanciare il proprio governo. Insomma, una situazione che vede anche, scrive Verderami, il super ministro nervosissimo perché avverte l'assedio di Berlusconi, del mondo delle imprese che usano la ricetta di Draghi per indurlo a cedere. Tra l'altro il Corriere intervista il ministro Galan, il ministro della cultura, uno che con Tremonti anche in una famosa intervista al giornale era stato molto molto duro, e dice: beh, Tremonti deve cambiare il registro ed essendo tutto tranne che poco intelligente spero faccia domattina la riforma fiscale secondo i principi quelli anche di Mario Draghi. Il consenso non lo si mantiene strozzando l'economia ed eliminando le libertà. Dunque già Galan che dice Tremonti si muova. Secondo il Secolo XIX, oltre alle voci possibili di dimissioni di Tremonti, c'era già il nome che avrebbe in mente Silvio Berlusconi per la sostituzione, vale a dire Cesare Geronzi. Il premier pensa di sostituire Tremonti con Geronzi. Questo a pagina 3, il retroscena firmato da Giovanni Palombo per il Secolo XIX. Starebbe addirittura pensando Berlusconi di dotarsi di un super consigliere per l'economia, di chiamare dalla sua parte Geronzi per poterlo poi lanciare al ministero. Questa volta ha promesso ai suoi: se non si piega alle nostre esigenze, parlando di Tremonti, dovrà fare un passo indietro. Anche per il giornale, riforma del fisco in primo piano, stavolta non deciderà Tremonti. Insomma, questo è il tema politico sviscerato, analizzato con retroscena da tutti i giornali nei modi più disparati. Anche Francesco Bei su Repubblica parla di un cavaliere alla resa dei conti. Giulio complotta, posso farne a meno. Questa sarebbe la nuova posizione di Berlusconi, che avrebbe, sempre con retroscena, garantito a Bossi, che ripeto è molto vicino, si sa, a Tremonti, nel caso sostituissi Tremonti, al posto suo andrà un uomo gradito al Carroccio, se non direttamente un leghista. Tra l'altro c'è questo retroscena di Francesco Bei, secondo il quale anche i leghisti avrebbero un po' storto il naso nei confronti del ministro dell'economia Tremonti. Perché? Perché ieri al primo consiglio dei ministri, che cosa ha fatto? È stata confermata la nomina a direttore dell'Agenzia delle Entrate di Attilio Befera, e Calderoli e Maroni non hanno fatto mistero, secondo Repubblica, di non avere gradito la conferma di Befera come direttore dell'Agenzia delle Entrate. Secondo Repubblica, così è sbottato Calderoli: ma come, proprio quel Befera con le sue ganasce fiscali che ci ha fatto perdere al nord, e Tremonti cosa fa? Al primo consiglio dei ministri lo conferma direttore? Cose da pazzi. Insomma, la tensione è evidente anche per il Foglio, nell'analisi in prima pagina dal titolo «Tutte le strade portano a Tremonti». Tutto ruota intorno alle inclinazioni, alle ambizioni, al destino di un uomo, Giulio Tremonti. Con la riforma tributaria che Berlusconi assieme a Bossi ha individuato per il difficoltoso rilancio della coalizione passa dal filtro costituito dai dubbi flemmatici del ministro dell'economia. Non c'è ipotesi di complotto, non c'è scenaristico 25 luglio del Cavaliere che non abbia sempre Tremonti per protagonista nel ruolo di erede per la prossima legislatura o di salvatore della patria in questa scombinata fase politica. Insomma, tutto ruota attorno a Tremonti. Il fisco, il piano di rilancio del governo, la supermanovra, la meccanica della successione alla guida del centrodestra, persino le timide avance che il PD rivolge alla Lega intorno alla riforma della legge elettorale, alludendo a un governo di unità nazionale con Tremonti alla guida. E il suo nome in queste ore è pronunciato in ogni capannello di parlamentare. Il silenzioso Tremonti non dice quello che molti pensano. Sulla crescita qualcosa si può fare. Ed è un Tremonti, scrive il Foglio, appunto, totalmente silenzioso. L'unico che spezza una lancia, devo dire, in questa polemica a favore di Tremonti è il governatore del Veneto Luca Zaia, che intervistato dal Messaggero a pagina 3 dice: beh, l'esempio è questo, è come quando in famiglia qualcuno insiste per andare al ristorante, dice Zaia, e quante volte si può andare a cena fuori dipende dai soldi, e chissà quanti soldi ci sono in casa, lo sa il papà. Ecco, bisogna chiederlo a Tremonti. È il ministro dell'economia a sapere com'è il bilancio dello Stato, a stabilire la sostenibilità delle riforme, perché tutte le riforme hanno un costo. Dunque, Zaia dice, come il papà, l'unico che sa in famiglia quanti soldi ci sono e con i soldi bisogna fare i conti. Così dice il governatore del Veneto, Luca Zaia, di Tremonti. Sta di fatto che la riforma fiscale, ieri l'ha ribadito Berlusconi, è in primo piano, è una priorità. Il Sole 24 Ore a pagina 5 con Marco Mobili racconta di come il menù in realtà della riforma fiscale sia già pronto. La riforma fiscale infatti è un cantiere aperto, quello che è cambiato dopo il voto delle amministrative è l'agenda, ancor prima di conoscere l'esito dei ballottaggi. Tremonti la scorsa settimana ha riunito i suoi tecnici per fornire i primi input, ha sconvocato i tavoli fiscali inizialmente fissati per lunedì scorso e ha convocato per oggi il confronto diretto con i quattro tecnici responsabili per tirare le somme del lavoro svolto dall'ottobre scorso finora. Tempi questi che insomma qualcosa si muove, appunto il Sole dice già le riunioni con i tecnici sono fatte. Quello che chiede ora la politica, la politica anche del centrodestra, con lo stesso Berlusconi in primo piano e in prima fila, è questo di accelerare e di fare tutto subito. Sentite anche il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta che ieri scriveva il Corriere, è in prima fila per cercare di dare un'accelerata, una frustata su questo tema della riforma fiscale al collega Tremonti. Beh, anche oggi in un'intervista a pagina 18 di Repubblica Renato Brunetta dice: sia la riforma fiscale da fare subito, se sarà il caso, assieme all'eventuale anticipo della manovra, sia anche ai tagli non indiscriminati alla spesa corrente senza sacrificare la spesa in conto capitale. Insomma, è piaciuta la relazione del governatore di Banca Italia Mario Draghi, questo per dare un sintetico commento alle parole di Brunetta, che dice: sono d'accordo con Draghi, per esempio la riforma del fisco deve e può essere fatta subito, va fatta in concomitanza con l'eventuale anticipo di manovra correttiva per il 2013-14, semplificando e razionalizzando il codice tributario. Come si finanzia? La riduzione del prelievo sui redditi da lavoro deve essere compensata da un aumento dei prelievi sui consumi. Di per sé questo spostamento avrà un effetto significativo sulla crescita. Se questo spinge l'inflazione, un eventuale impatto sarebbe solo transitorio. Certo, l'intervento deve essere significativo, modalità e mix sono allo studio del Ministero dell'Economia. Così il ministro Brunetta, che dunque ulteriormente, insomma, dice su questo, mette un po' di pressione politica, no? Sullo stesso Tremonti. Vabbè, questo è il tema più sviluppato, no? Il tema più sviluppato certamente è questo qui. C'è anche scorie di campagna elettorale e di ballottaggi di cui si può parlare vedendo i giornali. Beh, intanto Pisapia, che fa la prima intervista da neosindaco di Milano al Corriere della Sera, più che un'intervista è un colloquio con vari giornalisti che viene messa in forma di intervista, dice: mi piace molto che mi chiamino Giuliano, vorrei continuassimo a chiamarmi così, per carità non signor sindaco, va bene sindaco nelle cose istituzionali. La cosa però più interessante che dice è riferita al suo, diciamo, leader politico Vendola. Vendola, che da Piazza del Duomo ha usato toni forti, abbiamo espugnato Milano, toni da guerra civile. Sentite come risponde Pisapia: io parlo per me. Bisogna avere sobrietà nel linguaggio e nei comportamenti. Io sarò me stesso. A Vendola voglio bene, ma quando va in una città che non conosce, dovrebbe ascoltare più che parlare. Insomma, Pisapia che dunque mantiene la sua cifra di persona composta e tira anche un po' le orecchie al leader di Sel Vendola, dicendo: non conosce la città, sarebbe meglio che ascolti prima che parli. C'è anche su Napoli molta polemica. Ricordo che alle 8:20 avremo ospite il neosindaco Luigi De Magistris per l'intervista. Il leader del Popolo della Libertà in Campania, Cosentino, dice: non me ne vado, in un'intervista al giornale, e poi dice: Lettieri non era il mio candidato, non l'ho imposto, anzi per certi versi l'ho subito. Ma quindi lo scarica un pochettino, dice. A proposito di Lettieri, sentite Lettieri come si tira via qualche sassolino dalla scarpa dicendo: ora Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro. Beh, molto, molto forte questa frase di Lettieri. Berlusconi dovrebbe fare un passo indietro, così dice in un'intervista al Corriere della Sera Lettieri. Beh, ripeto, una frase sicuramente molto che fa discutere, insomma, è uno sfogo di Lettieri. Faccia un passo indietro per il bene del paese, intendo. È indiscutibile che a Napoli abbiano colpito me per far del male a lui. Ora credo si debba cambiare. E poi c'è anche questo giallo sulla questione di Napoli, con una frase di Berlusconi che ha suscitato indignazione e proteste. Berlusconi ieri ha detto: con a Napoli avremmo vinto se avessimo candidato Mara Carfagna, ma abbiamo preferito non candidarla perché l'avremmo affidata alla camorra. Insomma, una frase molto molto dura. Poi, di fronte all'indignazione dell'opposizione, Berlusconi ha detto: travisate ogni mia singola parola, semplicemente ho detto che avrebbe vinto, ma non volevamo buttare un ministro con tante risorse, con tante capacità, con tanto futuro politico in una situazione nella quale certamente la criminalità organizzata ha il suo peso. Voglio chiudere prima del traffico con una notizia che ha solo il Corriere della Sera, che per chi si interessa di queste cose, anche editoriali, spostamenti, certo, è una notizia che viene messa così come una certezza, ma che è una notizia in realtà che sarà certa settimana prossima. Vittorio Feltri lascia Libero e ritorna al Giornale. È abbastanza clamorosa la notizia se confermata. Pagina 15 del Corriere: era tornato a Libero dopo la sua abbandono del Giornale con tanto di polemiche. Già dalla prossima settimana, ormai, scrive il Corriere, è quasi certo, il giornalista Vittorio Feltri accetterà l'offerta che sta valutando molto attentamente e tornerà a Il Giornale, che aveva lasciato quanto 6 mesi fa per andare a Libero, anche in polemica poi con Sallusti, erano volati anche stracci tra i due. Ora pare che verrà riservato a lui l'incarico di direttore editoriale della testata. Dunque, Vittorio Feltri, così lo dice il Corriere, la dà per una notizia certa, settimana prossima lascia Libero e ritorna al Giornale. Per chiudere rapidamente la pagina politica, ci sono ancora due notizie. La prima non è politica, ma è politica perché è il processo che riguarda il presidente del Consiglio Berlusconi. È ripartito l'inchiesta, soprattutto di Milano, sul caso Ruby, con le eccezioni della difesa, dei legali del premier. Ghedini ha detto: sono 16 i motivi per fermare il processo Ruby. Così ne parla Luigi Ferrarella a pagina 19. 16 eccezioni, la prima delle quali è la competenza del Tribunale dei Ministri, non quello ordinario di Milano. E poi ancora la versione: era convinto, con quella telefonata alla questura nel momento in cui l'ha fatta, che fosse un intervento per la nipote di Mubarak, vale a dire Ruby. Insomma, l'udienza è stata aggiornata al 6 giugno. Questo lo trovate un po' su tutti i giornali, un aggiornamento su questo processo. Mentre l'altra notizia è che ieri Berlusconi, riguarda anche questa la politica perché riguarda il Presidente del Consiglio, come racconta Libero a pagina 2, come raccontano tutti i giornali, ha incontrato i figli, praticamente tutti i figli ad eccezione di una, che è Eleonora, che è rimasta negli Stati Uniti. Vertice coi figli per salvare le aziende, incontro a Palazzo Grazioli. In agenda che cosa c'era? Lodo Mondadori, perché tra un mese ci sarà la sentenza d'appello con i giudici che in realtà già da febbraio sono richiusi in camera di consiglio, una sentenza d'appello, una causa civile, quella che, ricorda Libero, ha condannato in primo grado la Fininvest a un risarcimento di 750 milioni di euro a favore del gruppo CIR di Carlo De Benedetti, una cifra che ovviamente Berlusconi, scrive Libero, non vuole sborsare, tanto che ha dovuto già il gruppo di Mediaset rilasciare in favore di CIR una fideiussione di 806 milioni di euro. E ovviamente questa è una delle cose che inquieta anche come patrimonio Berlusconi. Berlusconi, che tra l'altro ha detto dei figli, come racconta il Sole 24 Ore in una nota quasi di colore: se uno dei miei figli pensa di fare politica, lo diseredo. Così ha detto Berlusconi. Allora, il Sole 24 Ore in prima pagina mette con ampio risalto ciò che ha fatto, le considerazioni finali, per la verità, di Mario Draghi, presidente di Banca Italia, che chiude il suo mandato e ora andrà a guidare molto presumibilmente la Banca Centrale Europea da novembre. Meno fisco e tagli alla spesa, Draghi, il declino non è ineluttabile. Così a pagina 3 del Sole 24 Ore Rossella Boccarelli analizza tutto quello che è stato questo intervento del governatore: bisogna tornare a crescere, serve la manovra tempestiva, occorre unità di intenti, l'importanza di misure per ridurre le aliquote elevate sui redditi del lavoratore e sulle imprese, compensando il minor gettito con ulteriori recuperi di evasione fiscale, così ha detto Mario Draghi. Insomma, tra l'altro questa relazione, come ho detto all'inizio, è stata presa ed è presa come spunto anche da molti all'interno del conflitto, della discussione su come rilanciare l'economia del paese, per diventare una materia anche di scontro, di confronto politico sulle diverse visioni, no? Come la vede per esempio Brunetta, come la vede Tremonti. Andiamo alla cronaca, sono due notizie che voglio rilanciare per concludere. Beh, la prima la troviamo su tutti i giornali, anche l'abbiamo sentita nel nostro GR, è una di quelle notizie che certo inquieta, se fosse vera e confermata. Lo dico con i se perché la fonte è l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per la verità si è contraddetta in vari studi. OMS, rischio tumore dal cellulare. L'utilizzo dei telefonini può aumentare la possibilità di contrarre un cancro. Così Lara Ricci, a pagina 16 del Sole 24 Ore, questo studio dell'OMS che, ripeto, contraddice uno studio precedente della stessa OMS, cioè sono ritornati sui loro passi gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono insomma, dopo che per anni hanno detto che non c'erano prove che i campi elettromagnetici dei cellulari potessero aumentare il rischio dei tumori, ora invece pare che le prove ci siano. E ovviamente le indicazioni sono sempre quelle: usare l'auricolare, fare telefonate brevi, usare gli SMS piuttosto che una telefonata quando serve, insomma, se si mette il cellulare vicino all'orecchio. L'allarme dell'OMS un po' ovunque, sul Messaggero, sul Corriere della Sera, La Stampa vi dedica due pagine, l'allarme OMS, rischio cancro col telefonino, ripeto, va confermata. Certo, se confermata è una di quelle cose che un pochino inquieta, perché il telefonino lo usiamo tutti. E poi che dire, c'è la puntata odierna di Avetrana, io lo devo fare perché ora... questa figura tragica, se non vorrei dire tragicomica, ma di comico non c'è niente in questa vicenda, tragica, zio Michele Misseri, ora rilascia anche interviste, lo fa con Repubblica, è colui che è stato scarcerato e continua a dire: guardate che ho fatto tutto io, sono io l'assassino. Intervistato da Repubblica: io ho sempre detto la verità, l'ho uccisa Sara perché ero nervoso che non mi partiva il trattore, ho gridato, lei è scesa, gli ho detto vattene, ma lei voleva rimaneva lì, voleva parlare, allora l'ho messa di spalle, l'ho girata per buttarla su, mi ha dato un calcio e io sono impazzato. Non è che ho sbagliato la legge, sono impazzato, così ha detto. Sono impazzato e l'ho uccisa. Non è vero che l'ho violentata, ma l'ho detto per farmi credere di più. Insomma, ma adesso è disperato quest'uomo. Dice: l'ho uccisa io, ma i magistrati non mi credono.